io ero in ascolto, stavo prima mangiando, poi facendo altro, non potevo rispondere. È tutto qui, tutto K. E anche io ho già cenato, ho fame, boh, mangiato un po' di pasta, un po' di pollo in verde, è una pera, mangiata, non fatta. Io mi accontenterei anche di una pera da fare. Lu, ieri, ma cosa non riuscivi a fare ieri? Ho capito che non riuscivi ad accordare la boomerang, ma non l'avevi già accordata. Sì, poi ho deciso di piantarla su e ho avuto un problema con quello di su. Mi stavo mezzo attaccando, si stava alterando, guarda che c'era un padrono. E ho lasciato perdere, va. No, già oggi i problemi miei, oggi li sa. E poi si aggravano un casino. Ho avuto un problema con quello di su. Mi stavo mezzo attaccando, mi ha detto, se la smetti ti butto giù dal terrazzo, mi ha detto. Ma dalla 25? Via. Ma lì il terrazzo è condominiale o di un privato, diciamo? No, il tetto è di tutti, io l'ho messa praticamente dalla parte dove c'è il terrazzo suo, ma il tetto la posso mettere dove voglio l'antenna, il tetto è di tutti, capito? Vabbè, purtroppo non posso fare nulla perché non sono in casa mia, qua non ho problemi, assolutamente, qua non mi dice niente a nessuno. Eia, sì, se è condominiale non c'è alcun né vincolo né nulla, ma non solo, per esempio qua è di un privato, cioè il terrazzo di questo palazzo, che non ha tegole ma è terrazzo, è diviso in due, uno è un proprietario e l'altro è un altro proprietario, cioè l'hanno proprio comprato, come si chiama, lastrico solare, terrazzo, come lo chiama, vabbè, quello è. Però non c'è impedimento a installare antenne, capito? Ma nemmeno il condominio si può opporre, a meno che non ci siano vincoli tipo edifici storici di particolare importanza o di valore artistico, ma non credo che sia il caso lì, dai. Vabbè, dai, molte volte è meglio sorvolare, dai, perché se poi è un casino. Diventa un casino, ok, un casino grande. Poi pagoso va un baracchino, no? Ma poi l'hai rimessa dove era prima, terrazzino? Sì, l'ho rimessa lì, ho fatto un'area a 1,5, 1,6. Invece nei canali bassi a 5 sono a 1,1. Ma andai, mandavi 1,1, tutti i canali. Sì, io mi ricordo, l'ho avuto uguale, si trova perfettamente. Riuscivo ad avere 1,1, 1,2 su dall'1 al 40, capito? Ma ti dirò di più, io quell'antenna l'avevo piazzata su questo tetto, su questo palazzo là. Nel 92, no? Pensa che lo stilo, c'era il palo da 6 metri, lo stilo ha resistito a quel tifone con la tromba d'aria del 2008. Cioè io quando sono andato a mettere l'antenna nuova, diciamo che era quasi tutto, cioè lo stilo era tutto intero, si era rotto solo il radiale alla base, ma non per il vento, si era rotto perché il metallo si era infradicito e si era spaccato il radiale, la base del radiale, però lo stilo ha resistito alla tromba d'aria del 2008, incredibile. Sì, lo posso immaginare, vabbè. È un casino. Non so se tu hai problemi lì per piazzare le antenne, se qualcuno dice qualcosa, se la casa è... penso che quella lì è la casa della vostra, giusto? Sì, la casa è la nostra, ripeto, il terrazzo è di proprietà, però io avevo chiesto le chiavi e ho detto solo devo cambiare, dovrei sostituire l'antenna, io non ho detto il paracchino. A parte che c'era già, cioè non cambiava nulla. Prima ho messo l'aringo col palo a 6 metri, però l'aringo dopo un anno è andato a farsi benedire. E allora ho cambiato il palo, l'ho messo più basso, ho messo la 5 ottavi. Sì, hanno fatto un po' di storia, questo cavo dice che passa per terra, ma d'altronde è nell'angolino, cioè passa nell'angolino, che fastidio dà. Sì, lo dicono così, tanto per... così, dai, per farti rimanere male, però problemi, impedimenti, nessuno, assolutamente. Anche perché se non me la fanno mettere, se non me la facessero mettere, gli avrei fatto causa e l'avrei obbligato a farmela mettere. Che problemi ci sono? Ah, beh, certo, se te lo permette la legge, lo devi mettere, deve mettere, sì, vabbè, io non ho... Guarda, ho voluto evitare, parte del porto dove la stavamo mettendo noi andava benissimo, poi c'è la mano a capo, ok? Praticamente gli passava, non proprio a fianco allo stenditore, non dava fastidio. Questo cavo, ma lo bloccavo con i chiodini e non succedeva niente. No, nulla, non ho voluto. Poi tu stava agitando, tu lì non è piatto, ho detto calma, non c'è bisogno di andare lì, se stava alterando. E così è. Sì, e poi lì è delicato appunto perché sei in trasferta, diciamo, dai. Però vedi, come sempre, sono visti male i baracchini, capito? Niente nel baracchino. E purtroppo è una mentalità radicata. Io sono anche troppo prudente nel loop, perché io lascio sempre inserito questo famoso filtro passa basso, che ripeto non è lo ZG, non è il filtro anti-TV a ZG, è dall'RM Italy, è fatto meglio, c'ha molta più attenuazione, che ne so, se lo ZG è dato per 20 decibel di attenuazione, questo dovrebbe averne, mi pare 60 o 80, non mi ricordo, credo 60, però 80 mi pare troppo. Poi che funzioni non l'ho mai capito, non l'ho mai capito perché appunto non facendo TV da me non capisco se mettendolo o togliendolo ha effetto o non ha effetto. Io per sicurezza, per questo vivere, preferisco lasciarlo inserito. Infatti, ad evitare che magari disturbi. Tanto mi, se devono rompere le balle le rompono lo stesso, ma per adesso. Poi te l'ho raccontato, avevo tentato in tutti i modi di fare TV da me, non c'è modo, niente, quindi l'impianto mio è fatto bene, eppure è un impianto fatto, cioè, l'ha fatto mia zia che è una donna, ma a regola d'arte, per dire. Beh, se l'impianto è fatto bene, che problemi ci devono essere? Nessun problema, Marco. Ehi, io ho visto cose incredibili sui terrazzi, siccome noi abbiamo un terrazzo che però è in Viale Mameli, è un altro palazzo, no, dove abitava il nonno. Cioè, certe scatolette della il miscelatore, no? Era messo con i fili verso in alto, no? Praticamente lo aprivi, toglievi la calotta, aprivi la scatola, dentro era tutto pieno d'acqua, pieno, come un bicchiere pieno d'acqua. Ci mancavano solo i pesciolini e avevi fatto l'acquario. Buonasera. Infatti, buonasera Gianni, avanti. Buonasera Ciurmaglia. Allora, come butta? Oggi è stata una giornata creativa, dai. Ho fatto varie cose la mattina, il pomeriggio, poi vabbè, stanchezza, mi sono rilassato, cena, pranzato, diciamo. Una giornata creativa, diciamo. E tu già come butta? Insomma, dai, facciamo entrare Luca, poi ti spiego. Sì, è già, è ben risolto. Sì, Lu, vabbè, poi mi sono arrivati un altro bel po' di messaggi, alla fine ti ho detto avevo due numeri di gente che conoscevo, adesso vediamo un po', dai, sento queste due persone che conosco e vediamo un po' cosa mi dicono. Vabbè, non è niente di eccezionale, c'ho la mia macchinetta, una vecchia appunto a benzina, da fare un bel tagliandone, completo, e poi probabilmente c'è da cambiare gli ammortizzatori, quelli dietro sono scoppiati, davanti boh, bisogna controllare, dai. Ah, ho capito, dai. Già va bene, io questo amico te l'ho detto che è molto bravo, molto onesto soprattutto, poi non lo so, ognuno va dove le piace, non è un problema, dai. Va bene già, io ti ho detto la mia, poi tu sei libero di andare dove vuoi, questo è molto bravo e molto onesto. Eia. No, vabbè, più che altro nel senso che effettivamente cioè, se c'è lavoro da fare che lo faccia, non è che poi devo scoprire tirando la schiena dell'olio che l'olio non ha ciambato, che non ha cambiato il filtro, capito? Queste cose qua, siccome io avevo la moto, insomma, sono stato fortunato perché poi ho trovato gente seria, chiaramente si faceva pagare, però non ho mai avuto problemi di cose non fatte, capito? Quindi siccome per quanto riguarda la macchina sono veramente a corto di esperienza, però adesso mi sono venute in mente due persone che conosco, e niente, adesso prossimi giorni sento questi, uno è un amico, l'altro è un conoscente, sento questi due, mi faccio fare un assoluto preventivo, gli porto la macchina, così gli do uno sguardo, e niente, mi faccio dire più o meno a che livelli siamo, dai. Già, tranquillo, non c'è problema, vedi tu dove vuoi andare tu. Ripeto, quello è molto bravo, molto molto, poi ha forse una quarantina d'anni di esperienza, non è due giorni, Vabbè, dai, avanti Marco, riprendi. No, allora Gianni, sei un amico, dall'amico non andare perché gli amici ti fottono sempre. No, vabbè, a parte questo dico, io ci passo, l'ho sentito, lui non lavora, lui si occupa di altro, lui fa le revisioni, credo, però lo conosco, insomma, ci mette lui la faccia, anche il nome dell'officina, quindi, voglio dire, poi vabbè, non è niente di, non stiamo parlando di lavori eccezionali, cioè, si tratta di fare un bel tagliandone completo, sai, olio, filtro olio, insomma, candele, filtro aria, insomma, tutte queste cose qua, un cambiamento totale dei liquidi, sia freni, motore, antigelo, questo, quello e quell'altro, insomma, un bel tagliando di quelli grossi, e poi controllare, vabbè, quelli dietro mi sembrano scoppiati, perché, cioè, sballonzano abbastanza, davanti non so, e niente, quindi prima di fare, insomma, faccio le mie verifiche, dai. Ma devi andare a revisione? Cioè, anche questo serve per passare la revisione o già? O normale tagliando, diciamo? Di solito io tagliando, vabbè, a parte l'olio, le solite menate, finché non si rompe la macchina, vado, se metto benzina e vado. No, vabbè, ce l'ho da qualche anno, quindi proprio, come si dice, grazie a Dio non gli ho fatto mai niente, vabbè, ho messo le gomme nuove, e da poco, però, cioè, non, poi gli avevo cambiato le candele, insomma, poi tempo fa, però per il resto assolutamente nulla. Adesso infatti mi è capitata questa possibilità di fare, insomma, di fargli un bel tagliando completo, a parte che c'è un po' di chilometri, insomma, ne ha, credo intorno ai 135.000, 138, e niente, insomma, quindi se sai anche cinghia, cambiare la cinghia di distribuzione, che insomma è sempre roba deteriorabile in gomma, quindi niente, un materiale di usura, dai. Ehi, vabbè, normale amministrazione, dai. Ehi, riprendi Luca. Queste cose bisogna farle, non è che poi uno se ne frega. Purtroppo bisogna farle. È così. Mi sto facendo un po' di pulita, sto buttando qualche pezzo di, come si chiama, di telefono vecchio che non mi serve più. Mi prendo un attimo, mi sa che il cane mi ha pisciato, ma. Quando penso, allora qua praticamente, salvo rari casi, ci abbiamo tutti i dinosauri dei telefoni posseduti da me, dal primo quasi fino all'ultimo. Cioè il mio primo telefono del, credo, seconda metà anni 90, o metà o seconda metà, era il Teo della Telital, e c'ho il cadavere, la salma lì nel cassetto. L'ho tenuto per motivi affettivi, poi altri, Panasonic, Nortel, numerosi Nokia, magari distrutti non da me, ma così, insomma, prestati e distrutti ovviamente. No, io vabbè, non sono così attaccato, soprattutto ai telefoni, insomma. Uno me l'avevano rubato, l'altro poi alcuni si erano rotti, uno mentre ero in moto mi si era staccato la cinghia, sono tornato indietro, era un vecchio Nokia, l'ho ricomposto, l'ho acceso e è partito, no? Dai. Poi adesso ultimamente c'ho questo Samsung che tengo come router e poi uso ancora finché va il Microsoft Lumia, che anche se nello store non c'è più niente, comunque continua a funzionare il minimo sindacale, dai. Eia, mi pare che mi è rimasto anche un 8007, Motorola 8007, che aveva le plastiche spaccate in più punti, peraltro. Per il resto funzionava, servirebbe una batteria, presumo quel supporto plastico per inserire la SIM, tanto è sempre roba GSM, te ne immagini, ogni barroccio, per carità. Eia, io ho avuto quello col display... con i numeri rossi, il display, adesso non mi ricordo che, quale modello fosse, l'avevo venduto ad un'amica perché la nonna aveva bisogno di un telefono massiccio con i tasti grandi, se no me lo tenevo ancora per, l'avrei tenuto ancora per un bel po' di tempo. E Luca, tu te lo ricordi il tuo, qual è stato il tuo primo cellulare naturalmente a tasti, te lo ricordi? Luca, forse, vabbè, sta facendo roba. Sì, me lo ricordo, l'8007 con i LED rossi, LED, non LED intesi come adesso, i LED proprio luminosi. Che poi questo 8007 naturalmente l'avevo preso dopo, era di terza, quarta mano, così insomma, che aveva quelle suonerie a trillo, dai. C'era quella francese che era un po' debosciata, quella tedesca che era tremenda, proprio rigida, potremmo dire. Sì, adesso mi è fatto venire in mente un telefono molto particolare che praticamente a Sassari, non so quanti ce lo avessero all'epoca, era quel telefonino Sony che sembrava un piccolo VHF portatile, con antenini in gomma, schiacciavi praticamente un tastino in plastica e scendeva il microfono che aveva sul lato tipo spazzolino da denti, non so se l'hai mai conosciuto. Allora, il proprio modello no, però ho sentito che o stavano studiando, volevano fare modelli ibridi che avevano tipo il cellulare e anche la funzione LPD, è come se fosse un ricetrasmettitore annesso e connesso che poteva trasmettere in LPD, quindi con 10 milliwatt, una potenza veramente esigua. Se mi dici il modello potrei guardarlo qua su internet. L'ho conservato dentro qualche busta. Comunque, guarda, è praticamente un grande quanto un pacchetto di sigarette, molto tondeggiante, praticamente con in alto a sinistra con il cerchio forato dove c'era l'altoparlante e poi praticamente i numeri da 1 a 9 con lo 0, asterisco e cosa. E niente, proprio semplicissimo, sembrava, ti ripeto, un piccolo VHF. Adesso cerco, provo a vedere se qualche modello sia. Che poi io non ne volevo, all'epoca non ne volevo io il cellulare, ma ho già mini vozzo, per essere scocciato anche quando sono in giro. E l'avevo preteso mia madre perché insegnava in Gallura, capito? Quindi per tenere meglio i contatti me l'aveva fatto prendere, me l'aveva preso lei alla fine. Ed era questo Teo Telital di colore azzurro. Però era di quelli con quei contatti che se tu premevi il cellulare e si spegneva, perché i contatti non erano perfetti, capito? Dietro. Era una rottura di palle un po'. Guarda, anni fa, quando, se mi ricordo male, Raimondo Vianello, quando faceva quel programma sportivo su Italia 1, credo, stiamo parlando di un po' di anni fa, credo che facesse la... adesso mi ricordo se passava lo spot di questo telefono oppure... mi ricordo comunque che alcune volte l'ha presentato tipo televendita, dai, tipo spot promozionale, tipo messaggio promozionale. Mi ricordo questa cosa qua di Raimondo Vianello con questo piccolo telefono Sony, cioè era un tax. E quindi avevo, sai, avevo il canone con la bolletta e... cazzo, ogni volta, ogni mese mi sciarugonto. Comunque a livello di trasmissione di ricezione non ce n'era per nessuno, dove gli altri non riuscivano a chiamare io chiamavo per tutto. Ah, pax, ma porca miseria, adesso non mi ricordo, ma l'8007 era GSM o TAX? Credo che fosse TAX, almeno quello col display rosso. Allora, no, quello che ho io è l'ECD, credo che sia già GSM, però sono passati troppi anni. Mi ricordo anche inizio anni 90, tipo 94, lo Storno, quei modelli là, non li ho visti, non li vedo più da secoli, vabbè, roba antica. Comunque, da una ricerca sommaria non riesco a trovarlo quello lì. Io ho messo cellulare Sony, antenna gomma, ma non compare tutt'altro. Io l'ho trovato. Guarda, cerca, digita, telefonino Sony anni 90. E c'è una foto di un'installazione eBay con lo sfondo rosso. Millu, proprio il primo risultato. Che forma strana, ma è il display, cioè non c'è il display. Negativo. Cazzo, c'è l'installazione, io ce ne vuoi. Cellulare vintage, vero, Sony, taxa anni 90, 700 euro. E poi si sveglia tutto sudato il venditore. Zucca, ci sei ancora? Sì, sono qua. No, mi sono spostato un attimino perché il cane, l'ho detto, mi ha pisciato in terra. Oltretutto che ha la traversina, vabbè. E mi sto... gli mando un coltello, Marco, una patatese. Ma lo vuoi provare sul cane che ti ha pisciato in terra? No, perché era un po' macchiata, dai. Eia, sì, Olu, la domanda che avevo fatto prima, tu ti ricordi qual è stato il primo cellulare, ovviamente a tasti in assoluto, il primo che hai avuto? Sì, cazzo Marco, io ho avuto, non dico migliaia, ma quasi, ne ho avuto tanti. Il primo che ho avuto io è il D470, però quello senza sportellino, è praticamente con la batteria quella grossa, c'è cioè una batteria a lunga durata. Praticamente non mi stava nemmeno nella tasca di dietro, cioè mi conferma molto, quello è il primo telefono che ho avuto io. E poi ho avuto il Panasonic, poi ho avuto l'Ericsson T28, ne ho avuto un sacco, Marco, ma veramente un sacco. Eia, era per curiosità, dai. Comunque sì, vedo questo cellulare che ha avuto Gianni, caspita, senza tasti, beh, d'altronde se uno è sicuro di quello che fa, compone il numero, però, cacchio, magari non aveva rubrica, cioè dovevi comporre i numeri a mano ogni volta, così, è come erano i primi telefoni a tasti casalinghi. Eia, sì, infatti giravo nel borsello, avevo una piccola agenda in carta, avevo tutti i numeri di telefono. Se tu guardi, scorri nelle fotografie di inserzione, lo trovi col microfonino abbassato. Adesso guardo, allora, sì, un attimino che apro. No, questo non me lo ricordo, sì, c'è l'antenino in gomma, sembra proprio tipo un PMR, un VHF. E c'ha varie spie, vabbè, una è la spia batteria, l'altra è in uso, ROM, sarà roaming, l'altro è, sarà SIG level, non si legge bene, e c'è la squadrettatura della compressione. Forse il segnale, ripeto il segnale, credo. Eia, sì, magari era bicolore, tipo verde buon segnale, rosso segnale basso. Adesso apro l'inserzione proprio. Ah, ecco cos'è quella cosa che c'è di là, poi il microfonino abbassabile. Ah, ecco, una di sette le foto, vediamo. Ci vede la foto di dietro anche. Eccola. Ah, Cristo Maria, questo non lo conoscevo già. Non lo conoscevo. Infatti mi salvo le foto subito. Eia, infatti quella cosa poi la fai ruotare e lo richiudi. Il bello è che quando dovevi chiamare, no, la gente ti vedeva, schiacciavi il tastino, primi, scendeva il microfono. Ma cioè il microfono scendeva con un pulsantino, ma meccanico naturalmente, no elettrico, roba... No, meccanico. Chiaramente vedi che c'ha uno, è infulcrato praticamente su un perno, quello lo ruoti e lo porti sopra e si incassa. Poi con un tastino in plastica di rilascio praticamente c'è un dentino, praticamente con la molla, con l'affare scende e si apre. Eia, figata. Allora, quindi una foto faccio, una foto davanti, una dietro e col microfonino aperto me la scarico. Ecco qua, salva con nome. Uso il pollice sinistro per tappare, per cliccare, tra virgolette, e non compare nulla. Cosa c'ho? Il pollice difettoso. Infatti se guardi dietro, ce l'ha vista da dietro il telefono, c'è quella sotto il tastino, con la scritta Mic Relays. Ma come mai non riesco a fare queste operazioni qua? Datemi tempo, dai, prendete voi. Catena ha avuto veramente una marea di telefoni. Uia. Poi me ne hanno regalato, me l'ho sistemato. Che magari qualcuno aveva un problema lì nei contatti della SIM. E vabbè. Ho meno mani. Gianni. C'ho il mio S10 e va benissimo. Finché va, c'ho anche l'S6 Edge, quello lì c'è un po' il vetro filato, che funziona benissimo, è perfetto. È abbastanza fluido come telefono. Va bene, va bene. Nel caso invece l'ho provato qua, ripasso di nuovo all'S6. Ebbè, ho meno mani. Milomi, ciao Claudio, buonasera. Gianni, com'è? No, mi sono entrato adesso che va a consegnare un picco. Un pacco e sono entrato adesso. 2 minuti e poi vado a cenare. Come stai già? Ehi, dai, siamo qua. Entro ogni tanto. Appena ne ho un po' di voglia. Per il resto siamo qua, qua. Quindi. Che dire, boh? Io già devi dire, non devi dire nulla già. Va bene così, abbiamo già detto tutto. Va bene. Oia. Andrea Marcolino Condo. Io stavo ascoltando, mangiando e tutto, e quindi non potevo rispondere. Previsto la portantina, sì, da te 9.25, qua 9.10, quindi era a metà strada, però un po' più verso di te. Non credo nemmeno piazzare segni, un po' più giù. Per capire, qual era barra mobile me. Ma sto uscendo. Aspetta, cazzo, il cane mi ha preso la ciabatta. Picchialo con la pompa. A te culo con la bomba, non è tu. Io ti picchialo con la bomba. Se sta giocando, vieni qua nonno, vieni. Che te l'ho data ciabatta. Allora, mi ha preso quella nuova, lui ha una per giocare. Oh, cosa ci rimendi lui? Ti tengo tricchi, cosa ci rimendi? Sono lì, pulito un coltello, un po' la patalese, e poi sto buttando pezzi di telefoni e non ne faccio niente. Bianco per me un attimo. Ehi, già, va bene. No, ti tengo li mendi, vendici, tu cosa vendi? Poi vabbè, volevo dire a Gianni, se l'ascolto anche tu, Marco, mi hanno regalato un A3, funziona, c'è il vetro rotto, anche quello lì, e anche il vetro posteriore, però nuovo sistema, però funziona bene, abbastanza fluido lo stesso, un 16 giga, e poi mi hanno regalato un P8 Lite. Ehi, ma funzionanti, completamente funzionanti oppure da revisionare? No, sono funzionanti, solo c'è il vetro rotto. Ehi, quanto costerebbe un vetro da cambiare? O rifanno tutt'uno, vetro e display tutt'uno? Allora, guarda, per sistemare il P8 Lite con... fai con 40 euro lo sistema, fallo anche con 50, ma chi me lo fa fare? Ho sentito una cifra del genere. C'è una persona che ha rotto il display da poco, il vetro, e dice che gli hanno dovuto cambiare, perché come li cambia avevano il tutt'uno, vetro e display. Mi pare una 60 di euro, manodopera compresa, credo. Può essere? Claudio, riprendi. Non lo so se può essere. Può essere? Dal prezzo che ha detto Luca, sì, siamo lì. Poi dipende da chi vai, se vai dall'assistenza ufficiale, se vai dai cinesi, solo che i cinesi magari ti fregano tutto, password, eccetera. Vabbè. Cinesi, come si vuole fare? Non lo so. Io poca roba compro ai cinesi, proprio roba che mi serve, natosolante, queste cose così, capito? Sì, infatti, no. Roba impegnativa, no? non mi fido assai. No, no, neanche io, no, non è una cosa che puoi comprare roba, capito? Puoi comprare roba che non sia professionale, dai, non ne hanno roba, capito? Sì, per la roba già migliore basta comprare online e risolto il problema. Io se già ne ripreso poi al telefono. Eccomi, tornato adesso. Già, comunque si chiama Sony CMR111. Sony CM, M di Milano, R111. Oh, un attimino di bianco per me adesso, il secondo solo prendo subito. Ecco. Vai Antonio. Buonasera a tutti, buonasera a te Gianni e buonasera anche a Luca, mi pare che ho sentito. Buonasera a tutti. Io c'è un tuo ben entrato. Stavo notando anche, Gianni, che nella confezione presumo originale ti davano un enorme caricabatteria, il telefonino e anche una calcolatrice in pandan. Ti risulta? No, vabbè, io me l'aveva venduto un amico di seconda mano. C'aveva anche l'astuccio che si agganciava alla cinghia dei pantaloni, capito? Con uno sgancio rapido. No, era, ti ripeto che la gente quando me lo vedeva diceva, cosa cazzo è? Un baracchino. Anche perché qua io vedo l'anno 1993. E quindi ecco perché non ha display, era un modello forse tra i primi, o comunque un po' più economico per via del display mancante. Sì, c'è anche la scatola qua, sì, CMR111. Il prezzo non c'è originale, chissà quanto costavano all'epoca nuovi. Io mi ricordo che il Motorola 8009, c'era l'8007 e l'8009, mi ricordo nuovo da negozio tipo 1.400.000 lire. Uno stipendio di un operaio. Ciao Antonio, scusami, mi sono dimenticato di salutarti. Buonasera, ben entrato. Buonasera, ben entrato, ecco. Buonasera, ben entrato. Buonasera a te. Allora quanto è navaggio? Non vi raggio più la cosa. Quella uguale alla tua. La boomerang, secondo te che antennaccio adesso? Oh Anto, non ho idea di cosa hai combinato. Io qualche settimana fa sono passato, ho alzato lo sguardo e l'ho vista. Adesso non so se hai cambiato qualcosa. La Oreo. La Oreo. Qualche settimana fa già non ce l'ha più. No, vabbè, dipende, dai. Ma me la ringo per sopra. Vabbè, io ho parlato di qualche settimana fa per non essere così preciso, adesso mi ricordo che Rufarendi stava facendo una commissione lì al corso, poi scendendo muro, ho alzato gli occhi e ho visto la boomerang, capito? Adesso non mi ricordo esattamente quante settimane fa ci sono passato, dai. Cazzo muro. Cazzo Gianni, un pisce, cazzo muro. Vabbè dai, comunque scendendo lì verso la parte bassa delle monache, dai, ho alzato lo sguardo sotto indicazione di Antonio e l'ho sgamata subito, dai, in mezzo ai vari tetti. Ma già bella la manna, già bella alta, va. Non sono più 3 metri, no, sono più di 5 metri. Bene, Antu, adesso, visto che Claudio poi tempo fa stava misurando il segnale con le antenne uguali, adesso come sicuramente magari Antonio ha guadagnato qualcosa. No, tu sei liscio e arrivi, quanto lui arriva col lineare. Io sono liscio. Lui arriva, quanto arrivi tu col lineare, liscio? Vabbè, non lo so, forse perché sono basso, lui è aperto, io sono basso. Se ho usato una zona più aperta, guai, avrei guadagnato tantissimo. Lo so, te l'ho già spiegato Antonio, ne abbiamo già parlato. Gianni qua è 9 più 20 abbondante, tu invece sei 9 e 15, però quando attacchi arrivi quanto vecchi fatti così, sto utilizzando, è normale. E penso anche noi ci abbiamo una decina di fatti, ma... Sette spiccioli, qua a strumento. Sette spiccioli? Positivo. No, va bene allora. Le stazionarie neanche si muovono, lì anche uno a uno. Già vedi, no, va bene. Ma anche doppio rum c'è, doppio. No, Luca c'è. No, non c'è Gianni. Ma sono qua io, adesso mi sta facendo un ripristino di fabbrica dal telefono. Ehi, andate. Beh ragazzi, io vi saluto, un abbraccio a tutti, piacere averti sentito, Gianni lo profetta, ciao Bombolì, ciao Marcolino, ciao a te Luca, noi ci aggiorniamo domani, ok, per quella cosa che dobbiamo fare. Vi saluto tutti e farò cenare, dai, ciao a tutti, buon proseguo, vai Marcolino. Ehi, ciao Claudio, vai, ci sentiamo alle prossime, quando capita. Vai Luca. Ehi, ciao Cla, da domani, andava, da buona cena, buon tutto e saluti in casa, avanti già. Ehi, buona carica Cla, dai, ci sentiamo prossimamente. E niente, dai, poi giro una domanda ad Antonio. E dimmi. No, dico, siccome l'ho avuto anch'io per qualche mese, come ti ci stai trovando, Anto, con la Ringo? Bene. Ok, e la stazionaria come sei messo? Una e quattro, una e tre, dai, dipende che canali vai. Qua sarà una e tre, una e due, ma non salgono di più. Bene, perché mi ricordo quando pioveva che salivano di brutto. Infatti anche Marco mi aveva confermato la cosa. Non so se è costruita dalla stessa azienda, comunque niente, poi alla fine avevo deciso di toglierla perché questa era più stabile, dai. Sì, un po' rompipalle, ma non fa niente. Cioè, al massimo arrivano nei 5 proprio al massimo, ma non di più. Ehi, bene. Sì, chiaramente rispetto a me tu sei un po' più infossato, dai, come posizione, e sei un po' in mezzo agli altri tetti, e quindi è quello un po' che ti penalizza. Comunque qua arrivi, cazzo, l'antenna è a vista, arrivi a bomboletta, quindi non ci sono problemi. Ero giusto curioso di sapere che antenna avevi messo. Vabbè, dai, facciamo entrare il Condor. Oh, attenzione che anche qua c'è un segnalone, Antonio, non è buccia di gioco, da un gioco, via. È che un bambino è tranquillo a base, no, guai. Ah, c'è un dromino vicino, cuvaletto. Dai, un bimbo, un bambino. E io molto ti arrivo da qua già, ti arrivo bene, sì. Tutti in fondo scala, poi già praticamente questo aghetto arriva a fondo scala e poi torna leggermente indietro, arriva lì, siete tutti a tavoletta. Che buona l'acqua, qui c'è solo acqua, niente alcol, qui ci metto una birretta a pranzo, nada, meglio così, e pranzo c'è, dai. Dai, ogni tanto ci vuole, dai, poi il superiero, mamma mia, Marcolino si è assentato. Sono qua, mi stavo guardando telefoni vari dell'epoca. Un'infinità. Un'infinità. Vai Anto. Pa gappa. Avrà bene no, gappa la brava, eh. No, Anto, ci ho comprato l'alimentatore da 50 ampere. Vero? Ma da cinciulli. Ah, da internet. E come va? Quando mi è arrivato lo dico. Fatto bene, hai fatto, assai magato. Aspetta, tipo 25. E così in corsa. Aspetti, dico. Ma troppo forte ti sto arrivando. Già. Adesso si vede che è attaccato. C'è anche, si è un po' compresso e c'è anche un po' di alternata sotto, tanto. Sono 16 e 6, 22 e 25 mi è venuta. Già va bene, dai. Dall'Italia? Sì, fuori costava di meno, ma ci metteva cazzo un anno ad arrivare. Luca, per curiosità, link me lo puoi mandare, è probabile pure che faccia un esperimento e me lo ordini. Ehi, Marco, aspetta. Già pompani. C'è la mazza che tiene varia. Mamma mia, quanta roba bella che c'è in vendita. Mamma mia, bisognerebbe avere un portafoglio più a soffietto, ma a fisarmonica possibilmente, anni di prima. Eia. No, stavo dicendo, forse magari Luca mi ha parlato sopra, stavo dicendo, Anton, che si sente che la radio è un po' compressa e c'è anche un po' di alternata sotto, non so se hai ricevuto il messaggio poco fa. Ritorniamo ai metodi tradizionali, no, volevo vedere un pochettino se schioppettava. Già schioppetta, già schioppetta, è tipo popcorn, dai. Adesso un po' attacco il mio, ti metto la portante rispetto a Gianni, scommetti che passo io. Io quei vatti c'ho, da lì non si scappa. Ma è tutta roba piccola, è roba piccola, però efficace, per i DX soprattutto, però, che così non serve. Sì, in linea d'aria ci saranno 150-200 metri. E allora siete troppo vicini, troppo vicini, non credo che nessuno possa passarvi, benché attaccato. Sì, dai, torniamo all'origine. Hai detto, io so come mi intende. Allora, ma ragazzo, mi hanno detto che avevo bisogno di più cittadini, va bene, dai. A voi. Grazie Luca, eccolo qua, sì. 12 volt, ah vabbè, sono 12 volt quelli, sì è vero, non sono 13,8, però il baracchino è fatto anche per lavorare così, basta che ci siano gli ampere. Ho detto, l'unica cosa è i morsetti, però uno si adegua, tanto io poi mi faccio, sai che cosa lui? Ci attacco un pezzo di cavettino rosso nero e morsetti e poi metto l'attacco banana femmina, mi capito? Come gli alimentatori normali. Io ci devo già, le bananine, ce l'ho già. Metto i cavetti dentro, già le faccio un bel lavoretto, le faccio, fa una ripa. Ogni aggasino che si offende in hobby, ma cosa c'è qua? Nell'appartamento a fianco stanno un'orgia stanno facendo, beati loro. E sai che c'orgia? E tu gnocchi l'uno, tutti i cazzi si offendi. Sento ululare, magari si stanno sfogando prima del lockdown, che non puoi andare al logo. Vero gatto, è un ragazzo come Tarzan, vedi, vedrento. Tutto, Tarzan, Jane, c'è anche Cita in mezzo sicuramente. Andiamo bene. Vediamo il venditore. Napoli, mamma mia, che brutta parola. Dopo che vuoi ti vedere, grazie, sai niente. Voglio un attimo, da poi ti gioco un tende di gioco. No, comunque, recensioni, allora il feedback è 99,9% di recensioni positive, no? Quello che mi preoccupa è quello 0,1%. Vuol dire che è l'occhio. No, diciamo che c'è un bel di vendite. Per esempio, voti negativi in un anno solo 4. Voti negativi solo 4. Voti neutri 20. No, questo già è. Poi ci sono venditori che hanno in un anno decine e decine, se non centinaia di voti negativi. Quelli sì che sono lunghi. Questo sembra che sia abbastanza affidabile, dai. Che si dice? Ti prendi già. Ehi, mi sto girando una sigaretta, anche tu. Allora, la macchinetta, papà. No, mani e lingua servono. Così è. Alla cosa la fai? All'antica. A Santiga, Santiga. Che cannoncino, no? No, roba standard, tradizionale. Tabacco, cartina e filtrino, boh. Adesso me l'ho girata e tra un po' me l'accendo. Te la fai così, è buona appena un pezzo di c'è cosa lulle di burudù. Allora, aspetta che sto guardando una cosa al PC. Cosa volevo dire? Allora mi sono dimenticato, come al solito, mi sono distratto un attimo, No, per Marco, volevo chiedere una cosa a Marco, adesso mi sfugge. Ah, il presidente che c'è, che non mi ricordo che presidente è, cosa c'ha? L'altoparlante frontale, Marco? Io. Sì, esattamente, ed è di discreta qualità. Mentre quell'Inter che stavo usando ieri, quello c'ha proprio un altoparlantino di CCC, che suonano così. Anzi, nel President puoi regolare la tonalità. Da meno puoi andare più 5, quindi alzando i toni, o meno 5 abbassando i toni. Però a me piace neutro, cioè la regolazione tono lì è bruttina. Però per essere un altoparlante frontale, quello President è fatto 100 volte meglio di quello Intec. Sì, sì, molto meglio. Ma è un compleanno, e cos'è? Sentito tanti auguri a te. E poi si scappa l'orgia però. Avanti Luca. Eia, queste orgie, boh. E beh, d'altronde, scusa, c'è un festeggiato, quindi vuol dire che gli fanno la festa, no? Una festa orgiata. Luca, ma tu sei nel tuo cutiaco ufficiale? Si conferma, a casa della mamma, sì. Ah, ok, bene Meda. No, no, stavo guardando il segnale, è sempre il solito, dai. Gianni, io ho sentito una... Allora, un utente, vabbè, di questo acquirente, questo dell'alimentatore di Lucca, si è lamentato, no, i coltelli non sono in ceramica, vabbè, insomma, ha dato un feedback negativo, perché, allora, la descrizione è 7 coltelli ceramica professionali, Royalty Line, no, però costavano 7,50 euro, no? E come puoi pretendere, pensa, 8 coltelli 7,50, come poteva pretendere l'acquirente che fossero pure professionali? Cioè, vabbè, e gli ha scritto il venditore, 8 coltelli pagati 7,50, che coraggio a lamentarsi. Ha fatto bene. Fossero costati 750 euro, vabbè, cazzo, ma 7,50, ne manco un ciaffo di razzini. Nemmeno un ciaffo. Sì, sì, sì, vabbè, questo c'è scritto professionali, però, cioè, spendi 7,50, sai che però varranno 7,50 euro. E si è lamentato pure. Ui, ui. Oh, guarda che certi, anche su Amazon, ci sono degli utenti che mettono dei voti, cioè comprano cose folli, cose che non servono. Adesso non ti so fare un esempio, no? Che ne so, comprano un cavetto HDMI, micro HDMI per il cellulare che ha l'attacco USB-C, dice l'ho comprato, non è servito a niente, una stella, no? E beh, ma ho già capito, no? Cioè, dove lo metti l'attacco micro HDMI in un attacco micro USB, anche se 2.0, è diverso, è un altro mondo, è un'altra cosa, è un altro pianeta. Un'altra parrocchia, vabbè. Ho già letto io, mi è capitato di leggere certe recensioni, anche io ho letto commenti, cioè recensioni non qualificabili, dai, per carità, è pieno. Purtroppo è così, dai. Avanti Antonio. Sì, ma tutta gente che parla, tu non capisce niente. Sono più tontieri del rivenditore un po' di volte. Cioè, ma un po' di gente per portarti nella cattiva strada. E anche noi abbiamo avuto questi problemi qua. Uno che è accusato che non gli ho portato la bombola. Ma già giubisigato, già gliel'ho mandato a dire. Brutto miserabile, che ho capito chi era. E ho capito pure con chi, cioè, dove frequentava e tutto. Capo subito la gente. Poi altro che feedback. Mamma mia, io adesso sono da un po', l'ultima cosa che ho comprato su eBay era forse una batteria di ricambio per il cellulare di casa, quella con i tasti grandi per i miei. Ho capito. Oia. Aspetta, sto facendo casino io. Sì, c'è gente appunto, poi ha comprato da eBay, ce ne sono un PMR, no? Con tanto di indicata la frequenza, tu dici, ma non funziona in 27. C'è gente che non dovrebbe, forse avere nemmeno carta di credito, non dovrebbe nemmeno votare. Pacari, dai. Oh, yeah. Te l'avevo raccontata la storia del cavalletto spedito dall'Inghilterra, insomma, qua, che praticamente invece di mettere il mio appellativo, no? Praticamente ha messo il nickname, cazzo, e questa cosa non arrivava mai. Prima l'ha spedito con UPS e non è mai arrivato, dopo l'ha spedito con DHL e non è mai arrivato, alla fine dopo varie email spedite da me e anche da lui, gli ho detto, ma sei veramente sicuro di aver scritto, gli ho rimandato la mail con praticamente con le coordinate giuste, alla fine è arrivato il pacco col corriere FedEx, dove in precedenza c'erano gli altri italiani degli altri corrieri, cazzo, e c'era praticamente Gianni Dubrofetta, che ti credo non arrivi mai. Non ci posso credere. Cioè, cos'era il nominativo di eBay per caso, tu, da acquirente? Ma lì è roba fuori, quelli sono principianti, non sembra quasi una barzelletta. Sì, guarda, ti giuro, è arrivato alla fine il collo, cioè il pacco con praticamente i tre adesivi, no? dei vari corrieri, sia in quello di HL che in quello di UPS c'era praticamente il mio nickname con cui mi sono registrato su eBay, e poi vabbè, FedEx c'era quello giusto, e infatti è arrivato a casa. Guarda, che storia, guarda, già me lo ricordo ancora. Cazzo, poi sai, scrivi in italiano, traduci in inglese, gli mandi la mail, cazzo, guardi, mi dispiace, gli ricarico subito l'importo sulla sua postpay, però mi raccomando, se mai dovesse ricevere la merce, mi aspetto altrettanto onestà da parte sua, quindi gli scrivevo, sì, guardi, non si preoccupi, guardi i miei feedback come acquirente, alla fine, guarda, gira e gira, cazzo, è passato più di un mese, mi pare, boh, una cosa del genere comunque. Cacchio, bello, praticamente almeno il nome della via c'era, o nemmeno quello, c'è solo il nome. Vabbè, sul campanello non c'hai scritto Gianni lo profeta. Ma te lo sto dicendo, alla fine, cazzo, l'ho preso a ridere, perché cazzo, cioè, di più non potevi fare. Comunque dai, alla fine si è tutto risolto, gli ho scritto la mail quando è arrivato il pacco, gli ho mandato anche la fotografia, infatti anche lui si è fatto due risate, dai. Però alla fine, come dice quell'adagio, tutto è bene quel che finisce bene. Oh, yeah. Avanti tu. Tu c'hai qualche altra testimonianza? No, niente testimonianza, niente, finite. No, di pacchi che non arrivano mai. No, i pacchi sono sempre arrivati, ma in ritardo, oppure difettosi, guarda, io ho avuto un po' di guerra su eBay, tante guerre. Poi ultimamente ho preso un LCD per un Huawei, però siccome io, cazzo, da quell'attimo lì, io quando vedo che il prezzo è buono, abbordabile, se non lo trovo mai neanche 5 euro me lo prendo, però non ho guardato il venditore era straniero, è un casino, aveva il volto display e praticamente piattato tutto quanto, si guarda tutto quanto, come si dice, tutto a puntini, no? Come si dice la parola esatta, vabbè, non si vedeva bene. Allora gli ho mandato un'email che il display era difettoso, gli avevo già chiuso, pronto a rispedirlo indietro. Allora il tipo mi ha detto che voleva vedere, perché ho fatto la traduzione con Google quello per tradurre dall'inglese all'italiano, e praticamente mi ha scritto che voleva delle foto per vedere il problema. Poi siamo arrivati a un patto che lui mi ha detto, facciamo così, ti do la metà dei soldi e l'esito lo tieni, perché sennò dovevo spendere ancora di più a spese mie, rimandare indietro e poi aspettare i soldi di meno praticamente. Però facciamo così, mi dai la metà dei soldi, che erano circa 15 euro, pazienza, ne ho perso 15. Vabbè, a me mi era capitato era una cosa piccola, forse erano dei componenti elettronici, non mi ricordo che cosa avessi, cos'era in particolare, praticamente era una di quelle piccole bustine di carta imbottite, praticamente questa cosa è andata persa, praticamente ho, ma a prescindere dall'importo, era il componente che mi interessava avere, mi sono puntato per quello. Vabbè, ho fatto una segnalazione, perché praticamente il venditore non si assumeva la responsabilità, eppure, cioè nel senso, se succedeva qualche cosa non era disposto praticamente a venirmi incontro. Vabbè, ho fatto una segnalazione e poi alla fine poi l'utente ha fatto la cosa più sensata che si potesse fare, ha preso e mi ha rispedito nuovamente il componente elettronico e niente, tutto è finito lì, ho chiuso la segnalazione e pace e si è conclusa bella, ma a parte lì come si dice, l'importo era più che altro che era il componente che non era così comune, dai, l'avevo beccato, era una parte di adesso non mi ricordo che cosa, cazzo, comunque non era facile da trovare, ecco perché sono voluto andare fino in fondo. E niente, tutto qua, dai, vediamo se Antonio c'ha qualcosa da raccontarci sulle sue spese online. Forse sta cucinando a quest'ora, Antonio? Nulla. Luca, tu con AliExpress hai mai comprato? Andiamo per un attimino, ci siamo tra un pochino, dai! Parate in due, Anton, dimmi! Aspetta, bianco per me un attimino che sto facendo una cosa. Ehi, a lui, praticamente non è passato né tu né lui, avete ripreso nello stesso momento, dimmi Luca, una volta ho capito. Sì, una volta mi sa, avevo preso, non mi ricordo, che cosa. Allora io sì, già da qualche anno ho comprato un bel po' di roba, tutta roba piccola, Allora una volta un oggetto non è arrivato, è successo solo una volta, non è arrivato, è passato un mese e mezzo, due mesi e mezzo, e ho aperto la contestazione su AliExpress, è come eBay. Ci sono tanti venditori, poi c'è la direzione che insomma coordina un po', come dire, risolve i problemi tra venditore e acquirente. Allora il venditore aveva detto, il pacco è ancora in viaggio, però praticamente in Italia sicuramente l'hanno rubato dalle poste italiane, era scomparso, per mesi non si avevano più notizie. Il venditore diceva no restituzione, no rimborso, cioè no sostituzione, no rimborso. Insomma, fatte le pratiche, eccetera, eccetera, AliExpress mi ha restituito tutti i soldi fino all'ultimo centesimo, perché tracciando il pacco risultava che era mesi non più tracciabile, capito? Sicuramente l'hanno fregato alle poste italiane, qualcuno se l'è inguattato. Però per dire, di tanti pacchi ordinati, uno non è arrivato, rimborsato, quindi è abbastanza affidabile come lo chiamare, sito, piattaforma. D'altronde come GearBest sono abbastanza affidabili, dai. Sì, lo so. Non mi ricordo cosa avevo preso. Era anche registrato, non mi ricordo manco le mail, insomma devo registrare, capito? Qua su eBay ormai so dove andare, capito? Lì mi viene un po' difficile. I comandi ormai li so a memoria, so dove andare con un problema. Poi ho avuto più di un problema grosso, non mi risponde al venditore, ho dovuto chiamare PayPal per risolvere il problema, un casino. Poi i soldi, cazzo, ci passa un po', due settimane pure. Eia, io lì, vabbè, l'ho presa a conto perché non avevo fretta. Però vedo che il venditore non voleva rimborsare, dice il pacco è in viaggio e il pacco è disperso. Cioè, nemmeno la dogana di Rosario è così accicata. Infatti non è mai arrivato, sono restituiti, io poi avevo riordinato l'oggetto, e poi era un bau bau, vai Gianni. Eia, sì vabbè adesso ci sono, come si dice, quando apri la contestazione c'è sempre la possibilità di conciliare la cosa e poi anche a me era successo. Adesso non mi ricordo cosa avevo preso, comunque sempre roba di elettronica, più o meno si era verificata una cosa del genere, e niente, mi erano stati restituiti i soldi, poi l'avevo comprato da un'altra parte. Comunque, roba spicciola, dai.